Perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Banche, cresce la pressione su Boschi per le dimissioni, ma Renzi dice sarà ricandidata, non ci sono profili penali. Uccisi in ambulanza per favorire le aziende di pompe funebri. 3 vittime, si indaga su altri 50 casi a Catania. A Melbourne in Australia, auto contro la folla, 14 feriti, atto deliberato secondo la polizia, autista di origine afghana, ma si esclude per il momento il terrorismo. Catalogna al voto per il rinnovo del Parlamento locale, l'affluenza potrebbe toccare l'80%. Il Papa si rivolge alla Curia, basta col cancro dei complotti e delle cerchie, no ai traditori della fiducia che fanno i martiri. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, e poi c'è come sempre la nostra pagina Facebook e la pagina Facebook di Radio 24, dalle quali andiamo in diretta video, e se volete potete commentare, potete scriverci anche là. Dall'altra parte del vetro, Laura Faggini in assistenza in redazione, Andrea Roccabella in regia. Iniziamo anche oggi dalla questione delle banche e della questione politica che riguarda le banche. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Matteo Renzi non scarica Maria Elena Boschi, il segretario del PD interviene al TGcom 24 sulla sottosegretaria e sulla commissione d'inchiesta. È in atto una persecuzione di genere, dice Renzi dando ragione a Boschi, si è aperta una caccia alla donna. Ma sentiamo le parole del segretario PD. Un politico si fa giudicare dai cittadini, sì. Quindi saranno le elezioni a giudicare se qualsiasi politico, non soltanto Maria Elena Boschi, debba essere riportato in Parlamento o no. Per cui per noi questa discussione è una discussione che non esiste. Quella di Banca Etruria, precisa poi Renzi, è una vicenda priva di conseguenze penali, è giusto fare chiarezza perché chi ha sbagliato sulle banche paghi davvero. Poi rivela di non sapere nulla della mail di Marco Carrai a Federico Ghizzoni, ex numero uno di Unicredit, in cui chiedeva di Etruria. Ieri in commissione, ricordiamo, Ghizzoni ha confermato le rivelazioni di Ferruccio De Bortoli, ovvero l'interessamento dell'allora ministra Boschi ad un'acquisizione di Etruria da parte di Unicredit, senza però pressioni. Intanto però le opposizioni continuano a chiedere le dimissioni di Boschi. A te Simone. Grazie dunque ad Elisabetta Fiorito, e nella giornata di oggi, una giornata di quasi pausa per le audizioni, abbiamo deciso di fare un po' di ricostruzione su quello che abbiamo appreso finora. Secondo i racconti di Istituzione Banchieri davanti alla commissione d'inchiesta, nella storia del crack Etruria gli incontri cruciali partono nella primavera del 2014. A febbraio si è insediato il governo Renzi, Maria Elena Boschi è ministro delle riforme, il padre Pierluigi siede nel consiglio di amministrazione della banca Aretina. Quindi un po' di date e di storia. Dopo l'annuncio della fusione tra Etruria e Vicenza il 12 aprile 2014, il neo premier Matteo Renzi incontra il governatore di Banca Italia Visco e gli chiede notizie sulle due banche. Il 19 aprile la ministra Boschi assiste a un incontro tra il padre Pierluigi, consigliere della Banca Aretina, e l'ex amministratore delegato di Veneto Banca, Consoli. Sempre ad aprile la Boschi vede il presidente di Consob, Vegas, al quale annuncia il prossimo incarico del padre, che il 4 maggio diventa vicepresidente di Etruria. Il 28 maggio Vicenza lancia l'offerta su Etruria, il giorno dopo la ministra incontra di nuovo Vegas, il 17 giugno però l'operazione sfuma. A novembre il primo incontro tra la Boschi e il direttore generale di Banca Italia, Panetta. Il 3 dicembre 2014 i vertici di Etruria chiedono all'allora amministratore delegato di Unicredit, Ghizzoni, di valutare una possibile integrazione. Il 14 dicembre la Boschi gli chiede la stessa cosa. A gennaio 2015 la sollecitazione di Carrai, a fine mese Ghizzoni dice no a Etruria. L'11 febbraio 2015 la banca viene commissariata. Quindi a marzo il decreto sulle popolari, a novembre 2015 la risoluzione delle quattro banche. Il 18 dicembre dello stesso anno la Boschi si difende in Parlamento dalla mozione di sfiducia dei 5 Stelle proprio su Banca Etruria. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Continuiamo a parlare di banche, ma in realtà per tutt'altro argomento, perché è stato raggiunto l'accordo tra Intesa San Paolo e i sindacati per appunto gli esuberi e le assunzioni. Circa 9.000 uscite entro il 30 giugno 2020 a fronte di 1.500 assunzioni. Siamo l'unico paese in Europa dove non sono mai stati effettuati licenziamenti nel settore bancario, commenta Lando Sileoni, il segretario generale della FABI, il sindacato di maggioranza dei bancari, nell'intervista sempre di Livia Zancanera. Rispetto alle 3.000 che avevamo già concordato, sono arrivate ulteriori richieste di lavoratori per un totale di 3.500 per poter essere collocati in prepensionamento volontario. Quindi le uscite volontarie sono 6.500. Per arrivare ai 9.000 bisogna mettere insieme altri due accordi, che riguarda un accordo per 1.000 uscite volontarie di 1.000 persone delle due banche venete ed un primo accordo del febbraio del 2017 di altri 1.500 prepensionamenti e pensionamenti su base volontaria. Se mettiamo insieme questi tre accordi si arrivano ad un totale di 9.000 uscite entro il 2020 e di 1.500 assunzioni. In sintesi, quindi, il vostro giudizio sull'accordo con Intesa qual è? È un giudizio sicuramente positivo perché viene salvaguardato il principio della volontarietà, quindi parliamo di prepensionamenti volontari, e ritengo sia opportuno sottolineare che siamo l'unica nazione in Europa, per quanto riguarda i settori bancari, dove non sono stati mai effettuati i licenziamenti. La cronaca con una vicenda che arriva da Catania. I malati terminali venivano uccisi sull'ambulanza con una iniezione di aria nel sistema sanguigno e poi i corpi venivano venduti per 300 euro a agenzie di onoranze funebri mentre l'incasso finiva nelle casse dei boss. È l'ipotesi su cui lavora la Procura di Catania e che ha portato all'operazione dei carabinieri denominata appunto ambulanza della morte. In manette è finito un uomo di 42 anni con l'accusa di omicidio volontario con l'aggravante di aver agevolato gli interessi di Cosa Nostra. Una indagine che va avanti da mesi. La Procura etnea aveva aperto un'inchiesta per omicidio dopo le rivelazioni di un collaboratore di giustizia che accusa la mafia locale di aver avuto un ruolo nella vicenda. Le prime rivelazioni il pentito le aveva fatte in un'intervista alle Iene e poi si era recato in procura per riferire dei fatti a sua conoscenza. Fino a questo momento i morti accertati sono 3 e sono alla base dell'ordinanza del GIP, mentre sono oltre 50 i casi all'attenzione della Procura distrettuale di Catania, decessi avvenuti tra il 2012 e il 2016, sul quale sono già stati svolti accertamenti e di questi una decina, secondo le indagini dei carabinieri, hanno una maggiore pregnanza. Nino Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Catania. Siamo agli aggiornamenti dall'Australia dove, come vi abbiamo raccontato anche nei titoli, un'auto è andata contro la folla, ci sono 14 feriti, ma c'è ancora incertezza sul fatto che possa essere terrorismo oppure no. È un cittadino australiano di origine afghana, il conducente dell'automobile che a Melbourne ha investito dei pedoni nei pressi della centrale e frequentata stazione di Flinders Street. L'uomo è stato immediatamente arrestato grazie alla collaborazione dei passanti e in particolare di un poliziotto a riposo che passava da lì. Di lui si sa che ha 32 anni, che ha avuto problemi di droga, psichici, piccoli precedenti, ma nessun legame noto con ambienti terroristici. L'auto che guidava non era rubata, ma di un parente. Sulla base di quanto abbiamo visto, pensiamo si sia trattato di un atto deliberato, ha detto il comandante della polizia dello stato di Victoria, Russell Barrett, ma le motivazioni non le conosciamo. L'altro uomo arrestato è invece un 24enne che stava riprendendo la scena con un cellulare e nella cui borsa è stato trovato un coltello, ma probabilmente, dicono gli inquirenti, non ha alcuna relazione con l'investitore. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo alla legge di bilancio, alla legge di stabilità che arriva finalmente in aula alla Camera dopo il lavoro in commissione. Teresa Trillò, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. La manovra, come dici tu, è da questa mattina all'esame generale dell'aula della Camera. La discussione sul provvedimento è iniziata intorno alle 9 ed è terminata da poco più di mezz'ora. La seduta dovrebbe riprendere in questi minuti per iniziare le operazioni di voto. L'obiettivo della maggioranza è approvare definitivamente la legge di bilancio in tempi brevi, ossia prima delle vacanze natalizie. E proprio per velocizzare i tempi, alla ripresa dei lavori dell'Aula, il governo dovrebbe porre la questione di fiducia sul provvedimento per inviare poi la legge di bilancio al Senato per la votazione definitiva entro sabato. I tempi però rischiano di allungarsi perché il relatore Francesco Boccia potrebbe chiedere il rinvio della manovra in commissione bilancio per rivedere velocemente le coperture finanziarie di alcune disposizioni contenute nel provvedimento e approvate durante la maratona notturna della commissione che potrebbero non avere appunto una copertura finanziaria. E proprio Boccia questa mattina, illustrando i contenuti della manovra in aula, ha ricordato che la manovra vale 5,5 miliardi di euro, non più, non di più, e ha sottolineato anche le novità in arrivo, cioè dalle pensioni al bonus bebè alla web tax. Per ora è tutto, a te la linea. Grazie a Teresa Trillò per questo aggiornamento e veniamo alla questione dell'Ilva sul tema dopo. Il nuovo scontro che c'è stato ieri tra il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda e il presidente della regione Puglia Michele Emiliano, interviene, come si diceva, anche l'Europa. Sentiamo. Un'altra tegola si abbatte sull'Ilva di Taranto. I due prestiti concessi dal governo italiano nel 2015 dovranno essere restituiti perché sono da considerare aiuti di Stato illegali. È questa la conclusione dell'indagine avviata dall'antitrust europeo. L'Italia ora dovrà recuperare dall'Ilva 84 milioni di euro a fronte dei 2 miliardi stanziati in tutto. Secondo Bruxelles, la decisione odierna non interferisce con la procedura di vendita né con la bonifica del sito, che deve andare avanti senza ritardi, ha detto la commissaria alla concorrenza Vestager. Sul futuro dello stabilimento siderurgico più grande d'Europa, però, a pesare ora è soprattutto il duro scontro andato in scena ieri tra il ministro dello sviluppo economico Calenda e il governatore della Puglia Emiliano. Se la regione e il comune di Taranto non ritireranno il loro ricorso al TAR, il tavolo sull'Ilva può considerarsi concluso e dal 9 gennaio si inizierà a spegnere gli altiforni, è l'ultimatum lanciato da Calenda, una minaccia rispedita al mittente da Emiliano, che ha fatto sapere di non avere alcuna intenzione di fare marcia indietro. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Duro il Papa oggi nel suo discorso alla Curia. Occorre superare la squilibrata e degenere logica dei complotti o delle piccole cerchie, che rappresentano un cancro che porta all'autoreferenzialità e che si infiltra anche negli organismi ecclesiastici. È l'invito che il Papa ha rivolto alla Curia romana nel tradizionale discorso per gli auguri di Natale. Francesco ha messo in guardia dal pericolo dei traditori di fiducia o degli approfittatori della maternità della Chiesa, ossia, ha spiegato, quelle persone che vengono selezionate per dare maggiore vigore al corpo e alla riforma, ma che in realtà si lasciano corrompere dall'ambizione o dalla vanagloria e quando vengono delicatamente allontanate si autodichiarano erroneamente martiri del sistema, del Papa non informato, della vecchia guardia. Quanto alla riforma della curia in corso, poi, Francesco, riprendendo quanto detto da un prelato, ha ironizzato: fare le riforme a Roma è come pulire la Sfinge d'Egitto con uno spazzolino da denti. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E andiamo in Catalogna, dove oggi si vota e dove c'è il nostro inviato Sergio Nava a Barcellona, che stamattina tra l'altro si è anche fatto un giro tra i seggi. Sergio, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, buongiorno dal seggio della Virreina nel pieno centro di Barcellona, perché ci troviamo esattamente sulle Rambas, quindi un luogo facilmente identificabile da tutti i nostri ascoltatori. Abbiamo subito un dato importante, perché sono appena uscite le stime di partecipazione dell'affluenza alle 13, ebbene avrebbe votato fino alle 13 il 34,51% degli aventi diritto, un tasso di partecipazione molto alto rispetto alla media storica, però in leggero calo rispetto alle ultime votazioni del 2015, quando votò alla stessa ora il 35,10%. In mattinata code molto lunghe di fronte ai seggi sono andate però via via scemando nel corso della mattina, anche perché la gente ha cercato di andare a votare prima di andare a lavorare. Oggi è giorno lavorativo, chiaramente. E noi stessi abbiamo potuto verificare a questo seggio che ora non c'è più coda come c'era poco dopo le 9. Sono elezioni storiche. Da Bruxelles il leader deposto Puigdemont ha detto: dimostreremo la forza di un popolo indomabile. Il vicepresidente deposto Junqueras dal carcere: uscirò presto dalla prigione. Il premier spagnolo Rajoy invece ha detto: o il prossimo governo rispetta la legge o sa già cosa accadrà. Un chiaro riferimento al commissariamento. Alle urne sono chiamati oltre 5 milioni e mezzo di elettori e la scelta, al di là degli schieramenti, è molto netta. Da una parte votare per il blocco indipendentista e quindi continuare nella sfida a Madrid nel tentativo di secessione, oppure restare in Spagna. Noi abbiamo fatto qui proprio poche ore fa, di fronte a questo seggio, un piccolo sondaggio su 10 votanti e, come potrete ascoltare tra poco, la maggioranza di chi vuole staccarsi dalla Spagna e passare alla Repubblica Catalana è enorme, l'80%. Con le voci che abbiamo raccolto vi saluto e vi ricordo che i seggi chiudono alle 20. Da Barcellona è tutto. He votado por quedarme en España. Eso es lo que más nos conviene a todos los de esta región. Por Esquerra Republicana. Independencia, sí. Por República. República. Por República. Bueno, yo he votado por República, pero en realidad lo que quiero es un referéndum, no quiero independentismo. República. Me parece que aquí pues saldría mejor tener un espacio más democrático, creo. por de la manera que está España. Yo votaré Esquerra, sí. Por República, entonces. Sí, sí, sí. Porque soy catalana y creo que nos merecemos la República después de tantos años. Ni una cosa ni otra, que es difícil. O sea, que nos dejen tranquilos, pero que nos dejen gobernar más. A chiudere, andiamo al Museo Diocesano di Milano, dove fino al 30 giugno del prossimo anno sarà ospitata la mostra Capolavori Sibillini, le Marche, i luoghi della bellezza. Sono 50 opere di grandi maestri come Perugino, Crivelli, Simone De Magistris, che provengono dalle zone terremotate delle Marche, che resteranno per 6 mesi a Milano. L'esposizione è curata da Vittorio Sgarbi e da Daniela Tisi, l'ha intervistata Adriana Fracchia. La mostra è più che altro racconta una bellissima storia di messa in sicurezza di tutti i musei che fanno parte della rete museale dei Sibillini. Dopo il sisma che ha colpito le Marche nel 2016, la rete museale dei Sibillini si è trovata nella necessità di mettere in sicurezza tutto il patrimonio artistico conservato nei musei comunque danneggiati dal sisma. E quindi si è deciso con la direzione museale, ha pensato di mettere in sicurezza le opere, ma al contempo dare anche un senso, una valorizzazione a questi gioielli artistici. Quindi si è pensato alla tutela, alla conservazione, ma anche alla possibilità di fruizione, perché le opere d'arte appunto hanno senso solo se sono fruibili dal pubblico. E quindi la possibilità che abbiamo avuto ospiti qui al Museo Diocesano è una grande opportunità per il territorio dei Sibillini, ma per l'intera Regione Marche, che vuole appunto ripartire da rilanciare tutta la parte turistica proprio attraverso i suoi capolavori artistici. E proprio nelle Marche torneremo tra poco e torneremo a parlare di terremoto, perché c'è quella vicenda della quale vi abbiamo iniziato a raccontare ieri, in realtà vi raccontiamo da giorni, ed è la vicenda di queste casette, le casette antisismiche approntate per i comuni terremotati, le quali però, alcune di queste sono state costruite senza pensare che molti di questi luoghi sono in montagna, fa freddo e quindi ci sono i boiler solari, i tubi non coibentati che esplodono, e poi molti dubbi naturalmente su quanto ci hanno messo ad arrivare. Parleremo anche di Roma, perché oggi il quotidiano La Repubblica racconta una storia pazzesca che non conoscevamo, il fatto che c'è una regola che prevede che quando si offendono i vigili, la polizia, quando si offende la polizia municipale di Roma, per esempio, perché ti mettono una multa o cose di questo genere, in alcuni casi devi fare, non basta pagare la multa, devi fare un video e diffonderlo praticamente dappertutto, anche su YouTube, con una formula precisa nella quale non solo ti scusi, ma ringrazi tutta la polizia municipale di Roma per lo splendido lavoro che fa. C'è qualcuno che ha deciso di fare non solo ricorso contro questa norma, ma addirittura denunciare la polizia municipale di Roma per estorsione. Traffico, a tra poco. Guardiamo al futuro, verso un futuro migliore per tutti, perché noi in Bristol Myers Squibb ci impegniamo a scoprire, sviluppare e rendere disponibili farmaci che aiutino pazienti affetti da gravi malattie. Una passione vera che guida il nostro lavoro e ci spinge a perseguire importanti risultati. I nostri successi si misurano grazie alla differenza che facciamo nella vita dei pazienti. È questo il nostro riconoscimento più grande. Ancora un altro! Capo, ricorda quella pratica urgente da aggiornare? Dov'è finita? Il cliente è infuriato! E non la trovo, troppi documenti! E dove sono la nostra efficienza e affidabilità? Quanto mi costa tutto ciò? Affrontiamo la digitalizzazione documentale? Sì, ma come? Per abbattere inefficienze e costi documentali, non sparare a caso. Chiama Kyocera Document Solutions e gli specialisti del documentale. Trovi i documenti subito, li scansisci in cloud e li stampi da mobile. Kyocera Document Solutions, la trasformazione digitale che ti fa focalizzare sul tuo core business. Scopri vantaggi su www.kyoceradocumentsolutions.it. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp e la pagina Facebook, dalla quale andiamo in diretta video. La pagina Facebook nostra è quella di Radio 24, dove ci scrive anche Edda, che ringraziamo, e dice: quando non posso vedervi di giorno, avendo un sonno breve, ho sempre la notte. Quindi effetto giorno di notte, non è male questa cosa qua. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato di banche, cresce la pressione repressione sulla Boschia. Abbiamo parlato di questa vicenda terribile di Catania, persone che sarebbero state uccise in ambulanza per favorire le aziende di pompe funebri. Dei fatti dell'Australia non si sa ancora se sia terrorismo, ma di fatto un uomo ha lanciato la sua auto contro la folla. Della Catalogna, dove si va al voto, e delle parole del Papa alla Curia. Adesso iniziamo il nostro giro d'Italia e iniziamo da Genova, ma per parlare di Ilva, perché anche là c'è uno stabilimento dell'Ilva e si vive un po', se volete, questo paradosso, per cui delle decisioni prese a una notevole distanza, ossia dalla Puglia, in particolare dalla Regione e dal Comune di Taranto, che come sapete hanno deciso di fare ricorso al TAR contro il decreto del governo. Queste scelte prese così lontano possono ovviamente ricadere sugli stessi lavoratori dell'Ilva di Genova. Bruno Manganaro è segretario della FIOM CGIL di Genova, buongiorno, benvenuto Manganaro. Buongiorno a voi. Eccoci qua. E tra l'altro, su questa vicenda mi sembra che ci sia unità di intenti anche tra governo e sindacati, insomma, no? Su questa questione del ricorso di Emiliano e di Melucci. Sì, sulla questione ricorso non lo capiamo. Io non faccio parte né del partito di Emiliano né del partito di Calenda. Però decidere oggi di fare questo ricorso è assolutamente incomprensibile. In ogni caso deve essere chiaro che le decisioni prese per Taranto non possono in nessun modo ricadere su Genova e neanche su Novi Ligure, a pochi chilometri da qui. Questi due stabilimenti devono avere un futuro. Per Genova c'è l'accordo di programma, io difendo quello, che vuol dire che chi si prende lo stabilimento di Genova si prende 1 milione di metri quadri di aree e tutti i lavoratori, e sottolineo tutti, e se qualcuno in un momento di follia decide di chiudere gli altoforni a Taranto, bisogna sapere che l'alternativa per Genova, per Novi, esiste, perché i rotoli che alimentano Genova, Novi e tutto il nord, io spero che continui ad arrivare da Taranto, ma se così non fosse possono arrivare da tutto il resto del mondo e continuare a lavorare e a produrre. Ecco. Quindi Manganaro, voi prospettate un'ipotesi nella quale gli stabilimenti, a questo punto evidentemente non più Ilva, si distacchino da quello che può essere il destino di Taranto, nella malaugurata ipotesi nella quale le cose non vadano lisce per quanto riguarda Taranto? Io lavorerò perché l'Ilva sia unica, dal nord al sud rimanga un gruppo, con una nuova proprietà, ma un gruppo con tutti i lavoratori dipendenti della nuova società e alle stesse condizioni economiche. Però non posso impedire a un altro territorio di fare scelte che considero sbagliate. Se questo dovesse accadere, io continuo a sperare di no. È chiaro che l'idea di affogare insieme non è una cosa che penso sia giusta e appagante. Quindi per me esiste l'alternativa. La prima alternativa è l'accordo di programma, che va garantita. Quindi domani chiederò al governo di convocare un tavolo per Genova con tutti quei firmatari, ministri, enti locali, sindacato, la Mita, per confermare quell'accordo, le aree e i lavoratori. E se ci fosse appunto questa scelta sciagurata, è chiaro, lo ribadisco, c'è un'alternativa. I rotoli per me possono continuare ad arrivare da Taranto, ne sarei felice. Se però questo si chiudesse, i rotoli possono arrivare dalla Francia, da altre parti del mondo e continuare a far lavorare questa fabbrica a Genova, che poi fa lavorare Novi e a catena anche gli stabilimenti del nord. Grazie Bruno Manganaro, segretario generale della FIOM CGIL Genova, per essere stato con noi. E il nostro Giro d'Italia torna a portarci nelle Marche, torna a portarci da Giuliano Pazzaglini, che è sindaco di Visso, che saluto, l'abbiamo avuto ospite pochi giorni fa. Pazzaglini, bentornato, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ieri abbiamo avuto invece ospite il sindaco di Arquata del Tronto, che era ben contento ovviamente da una parte di poter inaugurare lo stabilimento della TOZ che porterà lavoro ad Arquata del Tronto, e dall'altra parte ci raccontava Pazzaglini quello che lei per primo ci disse qualche giorno fa, ossia che queste casette per zone di montagna come le vostre non sono fatte un gran che bene, come si diceva. Per usare un eufemismo. Appunto. Tubi non coibettati che scoppiano. Qualche ascoltatore ci dice: ma coibettare un tubo è una scemenza, ho fatto io in 15 minuti. Sì, però, come dire, ci dovevano pensare le aziende che evidentemente l'hanno fatto. Addirittura boiler solari, che ovviamente d'inverno, quando nevica e quando fa freddo, non funzionano, e quindi bisogna pensare a qualcos'altro, agganciarli al gas e così via. E poi, naturalmente, tutti i ritardi pazzaglini, no? Agganciarli al gas sarebbe il buon senso suggerirlo. Loro invece, anziché fare questo, hanno inserito una serpentina che praticamente è sempre una resistenza, che è sempre accesa, assorbe 2,5 kW, quindi significa che quando quella è accesa tu accendi il forno e salta la corrente. Questo è il quadro. Ma assorbe una quantità di energia pazzesca, mi scusi. Sì, è vero. Senta, mi scusi, e gli altri criteri costruttivi, il resto, come dire, va, non va, ci sono infiltrazioni, perché abbiamo letto anche cose di questo genere. Sì, quelli sono errori di realizzazione non progettuali. A livello progettuale ci sono degli errori, a livello tecnico, se vogliamo fare un discorso più ampio, ci sono degli errori. Il più grosso di tutti è il fatto che siano state previste solo ad un piano. Se fossero state a due piani, non solo avremmo dovuto urbanizzare la metà delle aree, ci sono molti comuni all'interno di due parchi, quindi sarebbe importante anche quello. Sì. Avremmo speso un terzo del tempo. Che è quello che ci raccontava l'altra volta. Ma Pazzaglini, ma chi l'ha scritto questo bando? Perché poi la realizzazione di una struttura di questo genere si basa evidentemente su un bando al quale qualcuno risponde, si fa una pubblica gara, per quanto rapida necessariamente per le esigenze che hanno le popolazioni terremotate, dentro questo bando. No, non è stato, perché in realtà la gara l'hanno fatta nel 2015. Quindi la Protezione Civile nel 2015 o 14, adesso non ricordo, comunque gli atti conclusivi sono nel 2015, ha realizzato questa gara per la fornitura di queste strutture per il quinquennio successivo, quindi 2016-2020, nell'eventualità che si verificasse un'emergenza come quella che poi c'è stata. Questo bando evidentemente non contemplava i luoghi nei quali, no? Nei quali sono avvenuti i terremoti. Io quello evidentemente non poteva farlo. Ho detto spesso che nell'individuare la tipologia, secondo me, si è pensato ad una località marina, perché i tetti poco inclinati, le tubazioni a metà parete non coibentate, il boiler esterno, il solare, adesso lo sa anche un bambino che è sull'Appennino che ci sono i terremoti, no? In Italia, quindi è abbastanza curioso che sia stata prevista una cosa di questo genere. Curioso, chissà se si tratta di un errore o se è intenzionale. Sinceramente adesso comincio a pensare tutto, perché purtroppo le cose che non convincono sono molte. Per esempio? A partire dalle modalità di aggiudicazione che prevedevano, l'offerta è stata ritenuta valida non sul piano economico, il costo è enorme, quelle strutture costano il doppio di quelle in muratura. Se consideriamo i 1.100 euro del costo totale, che però riguarda solo la parte fuori terra, perché le fondamenta e il basamento viene realizzato dall'impresa che fa le infrastrutture, quindi solo per la parte in elevazione si spendono 1.100 euro al metro quadrato, facendo il parallelo con le strutture in muratura, la parte in elevazione costa la metà, quindi la prima anomalia è questa. La seconda sui tempi, l'impresa appunto, non avendo fatto una offerta valida sul piano economico, ne aveva fatta una molto valida sul piano tecnico, impegnandosi a realizzare una casetta ogni 19 ore e 20 minuti. Allora quello che mi chiedo io è: perché se per realizzare una casetta serve meno di un giorno, per realizzarne 13 magari della mia area di San Giovanni 1 mi hanno dato 60 giorni, ma poi perché se non rispetta questi 60 giorni e non li ha rispettati mai, la penale massima applicata è del 10%? E lo chiedo perché, facendo un calcolo banale, emerge che rispettare i tempi costerebbe più che non rispettarli, perché il lavoro notturno e festivo che sarebbe necessario per rispettare i termini di consegna costerebbe all'impresa più di quello che spende per le penali. Perché sono riflessioni mie, però vorrei che qualcuno

Buone feste dalle stazioni di servizio Costantin, dove fermarti ti conviene. Senza la piccola impresa, all'Italia manca una nota. Una nota di creatività, di passione, di innovazione. Una nota di sapere artigiano. Da sempre la piccola impresa fa parte del panorama italiano. Da sempre Confartigianato la rappresenta. Confartigianato, ritratto d'impresa. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, cari amici romani, ma lo sapevate che vi potrebbe succedere questo? Se avete un diverbio con i vigili, se vi succede questa cosa, insomma, i vigili magari vi mettono una multa e va male, vi arrabbiate, gli dite qualcosa di sbagliato, potrebbe succedervi di dover registrare un video e diffonderlo su YouTube, su Facebook, ed è un video che più o meno recita così. Io sottoscritto, con riferimento al procedimento penale a mio carico per oltraggio a pubblico ufficiale, numero, esprimo profondo rincrescimento per il comportamento tenuto nelle vicende per le quali sono indagato. Io sottoscritto, con riferimento al procedimento penale a mio carico per oltraggio a pubblico ufficiale, esprimo profondo rincrescimento per il comportamento tenuto nelle vicende per le quali sono indagato. Sottoscritto, con riferimento al procedimento penale a mio carico per oltraggio a pubblico ufficiale, esprimo profondo rincrescimento per il mio comportamento tenuto nelle vicende per le quali sono indagato. Per tale motivo formulo al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale le mie più sentite scuse per le frasi proferite nell'occasione. Per tale motivo formulo al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale le mie più sentite scuse per le frasi, appunto, proferite nell'occasione. Per tale motivo formulo al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale le mie più sentite scuse per le frasi proferite nell'occasione. Voglio inoltre rivolgere a tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale apprezzamento per il lavoro quotidianamente svolto a favore della cittadinanza. Voglio inoltre rivolgere a tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale apprezzamento per il lavoro quotidianamente svolto a favore della cittadinanza. Voglio inoltre rivolgere a tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale apprezzamento per il loro lavoro quotidianamente svolto a favore della cittadinanza. Ma perché? Poi il secondo era stupendo, perché era recitato in un modo da dire mi scuso, ma in realtà non mi sto scusando e sono imbestialito. È successo però che una signora che si chiama Adriana, insegnante, 32 anni, così viene raccontato sul quotidiano La Repubblica, ha deciso che non ci vuole stare e si è rivolta ad un avvocato, non un avvocato qualunque, ma insomma un grande avvocato, che è Alessandro Gamberini, che insegna anche diritto penale all'Università di Bologna. Gamberini, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie per l'apprezzamento della mia professione. Ma state addirittura pensando di denunciare la Polizia Municipale per estorsione? No, guardi, il dato vero è che quella richiesta è talmente sproporzionata e assolutamente inconferente. Pensiamo alla richiesta di formulare un apprezzamento positivo del lavoro svolto dalla Polizia Locale, che non c'entra niente con lo sfogo rabbioso di un'eventuale ingiuria, che era meglio se la persona non proferiva, ma non vuol dire che io debba poi esprimere in concreto un apprezzamento. Magari mantengo delle critiche per il modo con cui i vigili urbani svolgono il loro lavoro a Roma. Dicevo che questa sproporzione in conferenza, unita al fatto che la persona si trova sottoposta a un procedimento penale, che vede in questo la sola possibile via d'uscita magari, crea una situazione di soggezione, e la proposta è una proposta abusiva, cioè una proposta che a mio avviso è, proprio perché è sproporzionata, di tipo estorsivo, quindi sarebbe una forma di tentata concussione, tra virgolette. Adesso io non credo che si svolga a colpi di processi penali si svolgono queste vicende. Penso che la pubblicità data a questa assurda richiesta del corpo dei vigili urbani di Roma, del comando, dice possa bastare a farli arretrare, cioè a far bastare a cambiare registro. Io penso e spero che questo basti. Tra l'altro, la cosa che mi stupisce è che è un protocollo questo, come dire, non è un'iniziativa, come dire, di un vigile urbano che si alza una mattina e decide questa strana storia. No, è un protocollo che va avanti da tempo, che ha trovato dei cittadini che sono stati costretti a fare quest'auto da fé e che quindi devo desumere abbia avuto l'avallo di qualche autorità della pubblica amministrazione romana, per forza. Un parere di un legale, non lo so, come possa essere accaduto non lo so. Avvocato, perché normalmente una cosa così si risolve con una multa e una lettera di scuse, no? No, normalmente si risolve col fatto che, siccome è previsto dal codice penale che il reato d'oltraggio si estingua pagando un risarcimento ai protagonisti e dando un risarcimento al comando, normalmente si fa in questo modo: si dà qualche centinaio di euro ai vigili urbani coinvolti nella vicenda, si fa una lettera di scuse al comando dei vigili urbani dicendo mi scuso per quello che è avvenuto, eventualmente si aggiunge a questo un piccolo risarcimento, ma una vicenda che rimane confinata a questo, non un'auto da fé pubblica per cui devi fare un video in cui si veda il tuo volto, che questo video debba rimanere su YouTube 30 giorni nel quale fai questa, ripeto, un'auto da fé, una gogna mediatica inaccettabile in qualsiasi paese civile per una tra l'altro, mi scusi, Gamberini, forse ci sono anche dei profili di violazione, di richiesta di violazione della privacy pesanti, perché qua tu devi dare nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita. Certo, come dire, i procedimenti penali hanno delle loro riservatezze, in questo modo io devo esplicitarlo, devo dire pubblicamente che sono sottoposto a un procedimento penale, ma una cosa, ripeto, che non so come possa essere stata partorita, io penso che la procura ben farebbe a vagliare gli estremi anche di una possibile ipotesi criminosa, ma ripeto, non è questo, non è in questa direzione che si muove il penale, già si occupa di troppe cose e spesso non in modo conferente. A me interessa che questa iniziativa venga meno, e se non venisse meno vorrebbe dire che ci sono tempi oscuri che si prospettano al nostro futuro, se la gogna mediatica diventa addirittura lo strumento fisiologico dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini. Sì, qualche ascoltatore scrive, vabbè, ma quelli sono incattiviti, e qualcuno è incattivito ovviamente per una serie di multe, dice, e poi quando si nascondono dietro le altre macchine poi appaiono di botto e mi mettono una multa, chi è che si scusa, con me pubblicamente? Sono Mario Rossi, agente della polizia municipale, e chiedo scusa per aver messo una multa a tradimento. Beh, non starebbe male però come cosa, naturalmente nulla che fare con la legge, ovviamente è chiaro che non è che si possono insultare gli agenti della polizia municipale, però c'è una sproporzione, come ci diceva l'avvocato, tra quello che viene richiesto a chi è accusato di tutto questo e poi ovviamente la pena che gli viene imposta. Grazie a Alessandro Gamberini, avvocato e docente di diritto penale all'Università di Bologna. Dobbiamo veramente chiudere. Traffico, Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.